niente mondiale. Hola, hola, hola. Chi è avanti? Poi in realtà... Ui, ci sei? Ci so, ci so. Eia, ciao già. Aspetta che spengo una... che mi sto mettendo in posizione, una... Eccomi qua, Natali. Eia. E allora, sono sempre un combinente. E stasera sono andata a comprarmi una sedia di quelle per stare più comoda. E dove l'hai presa? Dove ti ho detto io? E dove mi hai detto tu? Non me lo ricordo che mi abbia detto qualcosa. Non te lo ricordi, sei vintiato. E ti ho detto da mondo convenienza che l'avevo comprata anch'io lì. Ma non mi risulta, comunque già l'ho trovata, là. No problema. Poca memoria c'è la lì. Può darci che me ne sia dimenticato, boh. Ah, ti rammento. Tu mi hai detto che ti dovevi comprare questa sedia per stare più comodo, eccetera. Ti ho detto che l'avevo comprata a Marco. E tu mi hai detto quanto l'hai pagata, questo non me lo ricordo, ti ho detto. Vai, comunque che ce li hanno. Ma ce l'hanno anche in offerta, le ho viste, di quei di più anche mandano a casa. Ma vabbè, io me l'ho già preso. Un tavolo sto cercando per qua, per eliminare questo rotondo che non mi piace per nulla. Me lo voglio comprare o quadrato o rettangolare. Ti conviene quadrato al libro, Natali, in modo che tu se lo vuoi aprire lo puoi aprire o puoi fare più grande. Bisogna trovarlo, però non so dove andare a cercarlo. Ci prova da mondo convenienza, e lì costano anche di meno. E proverò lì, allora. Vedo se c'è uno. Ma per che cosa lo vuoi? Per mangiare o che cosa questo tavolo? Lo sai, io non lo posso mettere, non ne posso mettere due, devo buttar via questo, capito? Se lo trovo, questo ce lo butto, per prendere meno posto mi serve, vieni così. C'è un servizio d'ordine. Ho capito. Sì, ma la convenienza è quella, quelli al libro li chiudi e lo fai piccolo quando siete in due, poi se lo devi ingrandire lo apri. Infatti a me mi serve così. Io ce l'ho così in sala, ce l'ho al libro. E le misure quali sono? Quadrato, Sì, è quadrato. È quadrato, poi se quando c'è gente lo apri e diventa grande, capito? Ho capito. Le misure quanto è che sarà per lato? Natali, non lo so. Adesso te lo faccio sapere, dai. Adesso sono coricato. Te lo faccio sapere, te lo misuro e te lo faccio sapere, te lo mando per via cosa, via WhatsApp. Fai così, almeno lo vedo e mi faccio un'idea. Così lo vado a cercare lì dove mi hai detto tu. Non lo so però se sono per forza. E quindi no problem. Proverò a cercarlo lì. Capito, Natali? Mi sa che lo vendono al tavolo con quattro sedie. Che sono in serie. Il tavolo solo non lo vendo. Non te lo so dire, penso, ma io ho comprato il tavolo con le serie, ho preso tutta la sala lì, non da mondo convenienza, l'ho presa, la sala l'ho presa a coso, da, come cacchio si chiama, e vabbè, da Righi. E vabbè dai, vediamo un po' adesso. E intanto chiedere non si paga, se no vai in quei negozi di coso nell'usato tipo Portobello che ritirano mobili nuovi, li ritirano nuovi a negozi che fallisco. La Portobello è provato? No, non ho provato da nessuna parte, andrò domani a vedere un po'. E vedi, a Portobello non dico a seconda mano, però ce li hanno, c'hanno anche roba nuova che ritirano i negozi, c'hanno cucine, tutte queste cose qua, sale, prendono. Magari i negozi che sono in fallimento oppure che si vogliono sbarazzare della roba che hanno per prenderla nuova, e la paghi di meno, capito? Ci farò un salto. Perché se la trovi al limite, aia. un natalizio e mi operano. Ah, meno male. Il 5 devo andare a fare il tampone di nuovo e come si chiama, l'analisi del coso del sangue, mi devono prendere per il gruppo. E infatti. E insieme fanno un intervento, ai. Va bene, le cose delle ultime. Ma cosa così non manco mi visiteggiano, se non va di me. Cosa, non ho capito, siete di più sul televisore. E adesso lo abbasso, dammi il telecomando, penso, lo stai usando. Sì, come un po' di lettere, no? Non erano un bimbo. Ma si sente qua. Tieni rispetto. Oh. Ehi. Ah, di pulire i cuffi, comprare di quelle cuffie, di quelle senza filo, se le mette così almeno non disturbi. E infatti così farò. Io a papà gli avevo fatto così, perché papà deve essere che sentiva poco. Si metteva il televisore a manettone, cazzo, ma c'è da sordarti. Avevo comprato quelle cuffie, quelle che hanno il coso senza fili, e praticamente lui si metteva queste cuffie, c'erano il volume anche, se tu volevi lo alzavi dalle cuffie lo abbassavi, capito? E cappa, farò così, gli comprerò un paio di cuffie, che poi non era alto, e il microfono magari? Il microfono è sensibile, però anche il televisore, cazzo, tu hai sempre avuto questa cosa, me lo ricordo che anche quando era a casa di tua madre si sentiva l'Ave Maria. Perché mamma usava la radio, c'aveva una radiolina, no? Però un microfono faria che era un bel forte il volume, perché amplificava il microfono. Quello lì uscivi un bel forte, cazzo. Uscivi un bel bene quando c'avevi il 44, lui non viene la nessuno. Lo so, purtroppo le cose cambiano. Lo so, ma deve sta pure per le palle quello lì. No, verso le 7:30 spengo, se no se si deve guardare un film lo disturbo. Con l'omologato me lo disturbo lo stesso. Partita all'interno. Chi su chi è? Non è l'omologato, è il microfono che è troppo forte e rientra a quello. Sicuramente è così, Natali, da retta un macco. No, cos'è il microfono? Che no. Con 4 watt lo disturbo, è che non lo posso né abbassare né nulla, perché se lo apro perdo l'omologazione. Ma infatti, no, non ti conviene toccarlo, usa quello lì, boh. Se dovesse non venire, tu ce l'hai omologato l'apparecchio. Sì, ma no, poi siamo, sono d'accordo con quello lì, quando si deve guardare il film io spengo e basta, non è che tutto il giorno non c'è, perché lavora, quando rientra a casa che si vuole vedere un film io glielo faccio vedere, mica mi metto, poi si deve cambiare l'antenna, gliel'ho detto che è in marcia quell'antenna, ce l'ha attaccata la mia e in più è in marcia, perché non disturbo nessuno. Lo sai cosa dico allora, quando non c'è il baracchino non succedevano queste cose, adesso che c'è il baracchino c'è disturbi, come diceva il mio palazzo. Lo so, purtroppo sono ignoranti. È anche basso il microfono, mi guarda. Guarda che le spugne del microfono possono disturbare, Minatali. Non è che sia, magari quel microfono è stato tirato, è stata fatta la modifica e quindi è puro puro, senza filtri, senza nulla. Non c'è né resistenza né niente. Per forza che spara. Guarda adesso ha mettato il macchinino. Guarda un po', adesso dovrebbe essere più forte la radio. Sì, adesso sì. Io ce l'avevo così poco fa. Ce l'avevo, perché non lo uso mai forte, capito? E lui amplifica malassorte. Sì, ma io ti dico la verità, è più reale la voce così che quando è troppo forte. È molto più reale, più natalino, sì, così. E riesco bene anche con quello normale. Ma così sento il fumaccio. Come ero poco fa sono adesso. Non stai uscendo allora, sto uscendo basso basso, va basso però me. Hola, basso sto uscendo adesso. Sì. Mi sembra strano. Guarda un po'. Guarda il macchighi, se l'è toccato, magari toccate il macchighi. Guarda adesso. l'ho alzato. E adesso senti. Così va meglio, va. Prima era troppo basso, l'avevi quasi chiuso tutto. Cioè si sentiva proprio bisbigliare. Allora era basso poco fa. E vabbè. Non è entrato nessuno stasera, no, non c'è già adesso. Io stavo accendendo quando ho sentito a te. Ma non ho sentito nessuno. E vabbè, adesso già rientrano tutti quanti. Già rientrano tutti. E d'inverno si sta bene a casa, tutti assaccarrati. Torna basso, Zisci. Allora, è lui. Hola. Forse era il microfono, non faceva bene. Sei uscendo a... Già, eri tu che stavi uscendo a tratti poco fa, mi. Io? Eia, ti ascoltavo a tratti, l'ultimo passaggio che hai fatto. E vabbè, quello magari perché ho premuto male la portante, però tu stavi uscendo a tratti e si sentiva prima basso basso e poi a tratti. Ma, guarda adesso. Se la portante è fissa, perché magari non schiaccio bene io. E adesso va bene, ma tu cosa sei? Con l'MV più 4 metti di la portante fissa. E forse non schiacciavo bene. Adesso ho mollato due hai. Ho mollato io sì. Ho sentito, non schiacciavo e poi non si è sentito più nulla. Un macello che andai così. Questo è quello DM5000, il Proxel. Ma cos'è? Palmare? No, da tavolo è. Non pensavo che era l'MB più 5. No, l'MB più 4 ce l'ho messo lì sopra. E questo DM5000 com'è? Esci a vederlo, che vado a vederlo com'è. E quello della Proxel. È tipo... la di busso di e vabbè cercalo Proxel DM5000 come la Dunis semi perché io microfono sto cercando così largo La Dunis il DM5000 quello è il più piccolo che c'è quello senza equalizzatore senza niente la V908 è quello AV908 DM5000 quello lì è presto 130,90 euro confermi? No, costerà una settantina di euro poi c'ho il Turner più 3 anche quello americano, quello grigio c'ho che c'è scritto Turner plus 3 in inglese anche un altro bellino da palma aspetta no, è un dual mic questo qua ma quale? No ce n'era uno a fianco a quello che mi hai detto tu a 500 quello lì era un dual mic era bellino ma è un dual mic è quello che usano praticamente i camionisti per modulare con quell'app che c'è su internet no la V908 c'ho io e ho capito la tarì ma vicino a fianco c'era questo microfono che mi piaceva come estetica solo che è un dual mic e quello che usano con quell'app strana della Midland esatto li usano per quello i camionisti stanno usando quelli adesso perché dice che prendono tutte le parti non c'è bisogno di antenna né di nulla io perché non usano il baracchino usano il telefono. Ehi Natalia, è una cosa fredda, io l'ho provato ma non mi piace. Un giorno sono entrato e ho detto chi c'è in questo canile? Ma buffonendo così. Quando imparerà l'educazione, questo è qua affanculo. E l'ho detto per scherzare, subito deciso piccati, vabbè. Andare. Già da lì me ne è sceso subito. E infatti, cosa? Perché non è il baracchino, è il telefono quello lì. Non si sente neanche al baracchino se tu parli con quello. No, è una cosa fredda, capito? Io prima pensavo che si potesse sentire anche al baracchino, capito? Sarebbe bello così. Allora sì, però vabbè, è sempre freddo perché a me mi piace vedermi l'apparecchio, la stazione davanti. Signori, buonasera. Buonasera a lei, con chi abbiamo l'onore di parlare? Buonasera a tutti, Luciano, sono Luciano, salve. Ciao Luciano, Gianni Doppio Room, in compagnia di Natalino Alfa 1, avanti. Ciao, io sono di Cloaghe, è da poco che ho il malattino sulla macchina, sono praticamente figlio d'arte, mio padre era scheletro, non so se l'avete mai sentito anni fa. No, io non me lo ricordo sinceramente, io ci sono tanti anni ma non mi ricordo, tu Natalino te lo ricordi scheletro? Ehi, però adesso non ce l'ho presente, già me lo ricordo, ma non ce l'ho presente chi era, capito? Sì, manca già da qualche anno, almeno 20 anni ormai, manca proprio, nel senso che manca. E da poco tempo ho ripristinato tutto quanto io e adesso ce l'ho piazzato sulla macchina, ma c'ho un antennino piccolo e dovrò in qualche modo accettare qualche consiglio da qualcuno per metterlo più grande in modo che prenda di più, perché molte volte non copre neanche. Allora, qua sta arrivando a Sassari, sei Santiago Rover, Radio 4. Dove sei? No, sono sulla 131, sono appena uscito da Pretanietta. Ah, e allora va bene, là. Adesso sei 95, infatti è con questi B. Ma io ne avrei una di antenna che la sto vendendo, l'ho comprata nuova perché l'altra me l'avevano presa e l'ho ritrovata e quindi ce l'ho nuova, non l'ho mai usata. Se ti interessa è 2 metri, è la Turbo 2001, vai a vederla. Io ce l'ho a Calamita però, Puoi metterla anche io, ce l'ho a Calamita, l'altra Turbo 2001 che ho in macchina è a Calamita. No, possiamo magari vederci però la prossima settimana magari. Tanto qualche sera già vi sento, vai. Magari ci vediamo, ci incontriamo e se si può mettere non ho problemi. L'importante è che abbia una buona copertura. Sì, sì, è buonissima, è come avere la Mantova a casa, la stessa cosa. Mio padre aveva la Mantova 1 a casa e era spettacolare quell'antenna, poi con l'andare del tempo si è deteriorata, ma la ripristinerò. E infatti basta, non ci vuole nulla a rimetterla a posto. Vabbè, riprendi Natali, io te l'ho detto, se ti interessa, però la prossima settimana io non ci sono e dopo mi assenterò un 15 giorni perché mi devono fare un intervento, quindi non ci sono. Questa settimana sì, però la prossima no. Avanti Natali. Chi è morto? E quell'antenna va bene, quella 2001. C'ha una bella copertura, la conosco. Io c'ho in macchina c'ho la PLC 800 della Sigma, quella lì lo stesso è buona. Più o meno si equivalgono, dai. Più o meno si equivalgono. Te lo dico che avevamo fatto la prova dal quadrato a fianco e più o meno il segnale era uguale. E infatti, adesso io l'ho piazzata sulla base magnetica e quindi la tolgo e la metto quando voglio. Anche io l'ho piazzata sulla base magnetica, Natali. La base magnetica che ho comprato io della LEM non è sufficiente per quell'antenna perché è molto pesante come antenna e quindi ha bisogno di una base magnetica bella larga. E come quella che ho io. Cata. Adesso non è neanche fusaro come quella che ho io. E mi dispiace, io avevo quell'altra antenna là da piazzare, solo che è molto pesante. E mi serviva una come quella della macchina, ma non la voglio togliere dalla base magnetica, quella PLC 800, capito? Quella già è leggera, quell'altra che mi avevo comprato e che è pesante, vabbè che la userò solo da fermo, perché è una cosa enorme. Ce n'è anche un'altra, la Fusaro di antenna, che rimane, ce l'aveva la buon'anima di Pierpaolo, che rimane verde, ce l'è presente dove c'è la carica, è verde. E quella rispara va bene lo stesso. Sì, sì, ce l'ho presente anch'io, quella che aveva quella Nicolà. la buona anima, diciamo così. Ehi, avanti di nuovo Luciano. Ebbene Luciano, penso di sì. Deve essere entrato in qualche negozio, Natalia. Forse è entrato in qualche negozio. Ah, a proposito, lo sai che è nato il figlio di Antonio? Già lo so, sì che è nato. È anche caduto lui in moto. Ed è di Tidarghi. Ma dimmi tu. Che scalogna. Aspetta che stava parlando Luciano. Luciano! Infatti se segnale basso basso, dai, segnale 3-1. A poi Susemmo. Va bene Luciano, allora tanti auguri anche a te, dai, in bocca al lupo. Ciao ciao, ci sentiamo, avanti la sera. Ciao Luciano, se mi stai ascoltando, io purtroppo non riesco a tirarti fuori, dai, perché sono in una zona un po' così. Avanti già. Vabbè, con 30 cm di antenna non è che può fare più di tanto. Per quanto sia caricata a casa, c'era uno, Natali, che sta vendendo l'antenna che volevo io. Sta vendendo un po' di materiale CB, baracchini, antenne. E c'è anche quella che piace a me, la fusta nera. Ah, cappa. Sì, ma non serve a nulla, ce l'avevo anche io. Confronto alla PLC 800 c'è un abisso, perché le ho provate tutte e due. Addirittura la frusta nera l'avevo attaccata sul tettuccio della macchina. La PLC 800 ce l'avevo sulla base magnetica. Con la frusta nera arrivavo a Santiago 7 e invece con la PLC 800 sulla base magnetica 9-10, ma c'era la differenza. A voglia, ma pensavo che erano buone come antenne quelle lì. Io ho visto che quella di Franco, per dire, eravamo a Ezimanno a pescare e abbiamo parlato da lì e è arrivato Santiago 9 a Sasse. E un lineare, però. Senza lineare balle sono. Io l'ho provata senza lineare e la differenza è quella. È molta, molta differenza. Ma guarda, in continente vendono con le basi magnetiche a tre piedi, ce ne presenti? Sì. Già lo so che hanno tre basi magnetiche. Infatti io mi prendo una di quelle. Quelle dice che puoi andare alla velocità che volo, si stacca, vediamo così ti ammazzi. Quella mia mi si è staccata a me, andando ad Alghero, per due volte già, cazzo, non fanno. Se acceleri appena appena si stacca. E infatti non ci hanno tenuta, perché quella che hai tu è pesante come antenna. Ma anche se io avessi quella a tre basi magnetiche, come stai dicendo tu, non la potrei mai usare in movimento, perché se tocca poco a poco ti rovini l'antenna, che non si può né piegare né nulla, non ha nessuna molla, nulla. Qui c'è un pezzo rigido, solo il pezzo di sopra è flessibile, e in tre pezzi l'antenna, capito? Ho capito. Quella che stai dicendo tu è quella per VU. No, è decametrica, già va anche in VU, però è per le decametriche. Ho capito. E rimane molto lunga come antenna, quanto è lunga? È appena più corta della Turbo 2001, è solo che è grossa, è fatta in un modo che poi ci vuole la base col PL perché è a vitatura, capito? Non la puoi manco reclinare. Quando sono così lunghe qua, io a volte mi dimenticavo, andavo a fare la spesa, andavo da Multireto, scendevo nei parchi, tra tra tra tra tra. Penso tu a farlo io con quella. Infatti quella lì la devi tenere, la devi usare solo quando è ferma la macchina. Allora sì che la puoi usare, perché se tocchi poco a poco la spezzi. E allora, come faceva Vittorio, la metteva, si vedeva questa antenna più lunga del palo della luce, era questa antenna lunga. E lui parlando tranquillamente in l'inglese dentro la macchina, mi sono avvicinato e lui stava parlando. Vabbè, lui c'aveva anche la canna da pesca, quella lunga, ce l'aveva fatto e l'aveva agganciata alla macchina. Dentro c'aveva un linearone allucinante, che bello. Aveva l'857 come quello che avevo io, per poter parlare sulle decametriche. Solo che adesso non ha più il fiorino è fuso, non può più parlare, ma da casa ce l'ha l'antenna. Ma lui l'attività la faceva in macchina perché era sempre fuori. Non lo so se avrà qualche antenna, io non penso che stia trasmettendo, io non l'ho più sentito da nessuna parte. Perché la macchina è fuori uso, non sta facendo più manco servizi fuori. Se ha il furgoncino fuori uso è logico. Lui c'aveva i ferri, lì c'aveva tutto. Era super accessoriato la macchina. Lo so. Infatti ho detto, buscati un motore, ma poi vai e guarda com'è. E di quelli revisionati, di quei motori revisionati. Lo paghi un po' di più, ma almeno sa che va bene. E infatti se è fuso conviene prenderlo così. Capito? A rifare quello non fa, perché oltre che paghi un sacco di soldi, poi ne sai molto se regge. E infatti, chilometri ne avrà fatto sicuramente. Perché ha fatto molti chilometri e che gli è successo quello lì. A me c'avevo l'R4 per esempio io. Sono salito tranquillo camminando piano vicino dove abita Luca. A un certo punto ha fatto e ha una fascia che si era rotta e mi si è rovinato tutto il motore. L'ho dovuto rifare a nuovo perché si è spezzata la fascia dentro dall'usura. Quindi ti ho rigato tutto quanto il cilindro. Mi ha fatto un macello la buccia. Bene, ti grillo. Cosa aveva fatto Gianni Leoni, cavolo? Praticamente c'aveva la marea, te la ricordi la marea Session Vego? Quando ha fatto 70.000 km è andato alla Fiat per cambiare la cinghia di distribuzione e gli ha detto al meccanico che non c'era bisogno, che si cambiava 120.000 km. Adesso mi telefona, questo qui è due giorni prima che era andato, l'hanno mandato via. Mi telefono, era vicino alla polizia, dove c'era il garage della polizia, via di Sicilia. E mi ha chiamato, già c'è la macchina che non mi parte di fare un braccio, non c'è la chiave, che non si sa mai che cosa. Ho provato, e non che tu hai fuggito tuo gatto. E così era. È tornato alla Fiat e si sono legati che gli avevano detto di andare a 120.000 km, te li bacio. Se uno vuole cambiarsi la cinghia di distribuzione, almeno controlla che sia buona prima di dirgli venga quando ha fatto 120.000 km, assicurati che la cinghia sia buona. Se si rompe quella, i barri, tutto, se si piegano valvole, fai un danno più unico che raro. E infatti poi avesse pagato 2.000 euro, una cosa del genere, per fare tutto. E cioè la diesel anche. Figurati. Se spacchi quella succede un macello che non finisce più. Tu come andavi a mettere in moto senti il rumore di ferro? E come ha fatto a me quella là, quella Renault. Ma camion di piano mi si è spezzata una fascia dentro e mi ha crepato tutto il motore. È un casino. Io le faccio sempre prima del tempo, non la faccio mai quando lo dice il libretto, lo faccio sempre un po' prima. Tanto prevenire è sempre meglio che curare, Natalia. E infatti, la volta che me mi avevamo detto, vieni, me la guardi la cinghia, se non avesse guardato la cinghia avrei crepato il motore, perché era già rotta. Al limite, invece la mia era magnurata appena appena, ma non molto. Quella dell'altra macchina che ho cambiato, era un poco magnurata. La sai buoni e fasciarsi come la mia, magnurata, brutti. e subito mi raggio fatta già, ma mi cambi subito la cinghia, che sennò crepo tutto qua. E la ciambarda da me, gliel'ho già cambiata due volte la macchina mia, la cinghia di distribuzione, perché non c'è altra cosa, eh. Quando c'era la catena era un'altra cosa, ma con queste cinghie che hanno messo adesso, se poco poco si rovinano, ci mettono molto a spaccarsi, ti mandano fuori fase il motore, budubum, e spacchi tutto. Certo. La cinghia di distribuzione prima la 500 prima c'era la catena, diventava rumorosa, poi non si rompeva. E quando era rumorosa, cazzo, la pigliavano e la cambiavano, però non si spezzava, e tu il motore non lo rovinava. Anche nelle Alfa c'era la catena, capito? Io me lo ricordo, c'era la catena di distribuzione. Se faceva rumore di subito la portavi al meccanico e non succedeva niente, perché ti cambiavano quella, la catena, e praticamente la macchina tornava come era prima. E certo che sì, certo che sì. Con le cose lì bisogna stare un po' attenti, sono le manutenzioni di routine che si fanno nella macchina, olio, filtri, queste cose qua dopo un po' di chilometri si fanno, così, i freni, tutto, le pastiglie dei freni è la stessa cosa. A me io le ho già cambiate le pastiglie dei freni, due, quelle di davanti, adesso quelle di dietro da cambiare. E io da poco lo stesso ho fatto tutta la messa a punto. Cosa l'udice, se non gliela fai ti dura da Bacca a Sant'Ichevano. Ho cambiato olio, filtro d'olio, filtro dell'aria, tutto l'olio in terra, via, tutto nuovo. Dove ti servi tu, Natalia? Da qualsiasi meccanico, dall'amico di Mario mio fratello sono andato e me l'ho fatta fare, e non ne ho problemi. Il filtro della naftalina mi ho cambiato. Lì se non arriva la manutenzione, sei vuttito. E così prima di andare a lavorare, quando entravo al comune, prima di entrare a travagliare mi faccio la manutenzione alla macchina. A che a me la macchina mi svia e a travagliare. Ogni tanto bisogna controllare l'olio, liquidi, tutto quanto. E io ogni tanto lo controllo, anche se la macchina è nuova e non ne consuma, però è sempre meglio controllare, se c'è qualche perdita, qualche cosa, non te ne rendi conto e fai danno. E infatti, e noi i suditi, voglio dire, io prima, anche se l'olio era buono, in terra, via, direttamente cambiato l'olio e il filtro dell'olio, sempre. Ogni giambù vitro di giambato. Poi il filtro della naftalina, il filtro dell'aria. E io l'ho cambiato quello del gas, l'ho pagato 30 euro, il filtro del gas, una cazzata. E più mi ha controllato tutto l'impianto e mi ha detto che alla Fiat, quando ho fatto il taglio, mi avevano spaccato quel carter in plastica che c'è sopra la macchina, non sopra il motore, che avevano spaccato quello, e lui l'ha fatto davanti a me, quindi non era lui che l'ha rotto. E poi abbiamo guardato e ci avevano tentato di collarlo, però la colla non l'ha tenuta e si è staccato. Sono andato alla Fiat e gli ho detto che quelle cose non si facevano, mi sono incazzato un me. Me l'hanno ordinato nuovo e me l'ha rimosso lui. Allora, si una futine, non hai capito che se ne fregano. Già succedeva a Ruzzeddu una cosa del genere. A Ruzzeddu mi avevano toccato la macchina a me in officina. E sono tornato, l'ho detto a lui, al padre, che ancora c'era il padre, l'ho detto al padre, ha chiamato i meccanici, ha detto chi è che ha toccato questa macchina, tutti gli altri lo sappiamo in un dame, e noi la macchina la portiamo a riparare, ci fa vedere la fattura, poi già ci arrangiamo lui, se non esce fuori prendo tutti quelli che sono andati su questa macchina a lavorarci, li prendo i soldi. E chi se lo va a dire vero? Che era un meccanico a virus, non a buffonelli. Quando va la polizia a farsi le macchine, faceva le macchine della polizia pure, mi dava il farò della polizia, poi vabbè ci hanno messo i meccanici loro e e cicci. Tu pensa che adesso non le possono toccare le macchine, devono portarle per forza alla concessionaria. Neanche i meccanici di loro le possono toccare, solo Ruzza al massimo riboni giamba e non lo uso comunque. Ma quelle della polizia dice? E allora non le possono toccare più. Solo che tu la porti alla concessionaria e ti prende 350 euro, non la giubilo da regata da Franco, mi ha fatto lo mantenere in travaglio con 150 euro e mi ha fatto tutto il lavoro uguale, la stessa cosa ha cambiato. Come mai? Tanto già paghiamo noi, capito? Perché magari non mette il filtro dell'aria Fiat o il filtro dell'olio Fiat, pagarsi la futti uguale. Ehi, ma dico, tanto già paghiamo noi con le tasse, allora non gliene frega nulla. Ah beh, però fanno, cioè sono dottori, capito, lì alla Fiat, non si può entrare. Io l'ho fatto sino a quando era in garanzia, l'ho portata a fare italiani lì. Poi la sto sempre portando a Franco, dove mi sono sempre servito. E Franco è bravo a vivo. Bravo è, al posto piccolo ma è un bravo meccanico. È sempre aggiornato, va a fare i corsi, tutto. E se no non vai avanti, Cavamo questa storia dell'elettronica, se non fai i corsi di aggiornamento non ne togli il piede. Sì, capito, c'è un po' di elettrauto e un po' di meccanica, quindi anche gli elettrauto devono andare. E beh, specialmente loro che fanno impianti elettrici e tutte queste cose qua. Se non fai corsi di aggiornamento non c'è nulla a fare. Adesso i meccanici, quelli anziani, vanno bene per aggiustare le macchine di una volta, ma quelle di adesso non ne comprende di nulla. No, non ci puoi mettere le mani, e devi fare la diagnosi, e questo e quell'altro. Franco l'altro giorno mi ha cambiato la batteria, perché mi è partita la batteria. Ha cambiato la batteria e poi mi ha detto, togli la chiave, mi ha fatto togliere la chiave dalla macchina e tienila in mano, non la mettere, non inserire. Ha tolto la batteria, ha rimesso la batteria, ha attaccato quell'affare, e ha rimesso tutti i parametri com'era. E se tu inserivi la chiave ti resettava la centralina? Cosa? Ah, se la lasciavi? Non so, ma ti ho fatto mettermela in tasca, di non attaccarla. Perché c'ha l'antenna vicino al gruppo. Quindi meglio che sia lontano la chiave, perché può succedere danno alla centralina e la buona unica bibili. Sì, e poi come stacchi la batteria se ne va tutto quanto, devi tutto ripristinare, tutto radio, tutto quanto, non tiene memoria, capito? Infatti, perché non ha nessun backup, come togli la batteria manca la corrente completamente. Sì, ha tutto orario, tutto quanto vuole rifatto. Sì, vabbè, già ho fatto in fretta. Qualche cosa non l'ha tolta, qualche cosa che ci dà la casa, però la maggior parte l'ha cancellata, l'ha resettata tutto. Infatti. Ma che casino queste macchine moderne. Sulla batteria, nella station wagon mi ero lamentato, ho attaccato la batteria, è partita. E l'elettrota ha guardato, mi ha detto, guarda, non te ne fa la vergogna. Tanto 7 anni e mezzo dura questa batteria, dov'è che durava 7 anni e mezzo? Infatti a me mi è durata 4 anni. Un drop del durata, ma perché adesso sono senza manutenzione e partono subito? 4 anni, allora io faccio la macchina, ce l'ho 5 anni ad aprile, e l'ho cambiata questo mese. E io pure l'ho cambiata a poco. 90 euro sulla batteria, ma dopo l'hanno mai fatto pagare. No, Franco è onesto, dico la verità, non posso lamentarmi. Sta sempre andando a tirare, ce l'ho chiesto, ma tu dico, lo stai andando? Sì, sempre. E io non ci sto più andando per la storia della gamba. Ho già detto che sta andando a sparare anche con la pistola. E chi? Frank. Anche la pistola c'è. Sì, come la tua, la, come si chiama, quella un po' squadrata. La Glock. Glock, yes. Quella lì sembra così, ma sono precise, ma la sorte. Se la sai usare, è di lusso. Saranno precise, ma la forma non mi piace. Mi piacciono più le Beretta, cosa ti posso dire? Le nove lunga, tutte quelle lì, la Bruni, la mia avevo la Bruni. Vabbè, ma quelle sono pistole che saranno belle di forma, tutte, però non venne qua nessuno. La P38 però era nominata. Come la 92, ha lo stesso meccanismo della P38. KK. E quindi sono a nada, sono a riposo. Lasciata questa la finestra, che non accende bene. Cosa ti volevo dire? Quella che ho io, ce l'hanno i carabinieri, quelli dei reparti speciali. Non ne hanno beretta. Ah, se hanno preso le glocche. E allora, adesso hanno liberalizzato anche il 9 parabellum. Quindi io, se cambio la canna, della mia diventa 9 parabellum invece che 9 per 21. Ma non mi conviene, che è più potente la mia. Vabbè. E vabbè, poi sempre lì devi andare, puoi tirare solo a tirassegno, va. Infatti, cosa... dove vuoi andare? A tirare a chi duro. La voglia già ci sarebbe di andare a tirare a qualcuno. Io te la siete al posto. E lasciamo perdere, va, che è meglio. E infatti, poi se no sei sicuri. No, essere sicuri già sono sicuro. Sono voluto male di nuovo, va. E io ho risposto bene a tutto. Mi hanno voluto mettere in difficoltà loro. Si collegavano, si mettevano d'accordo, deve essere, e poi chiedevano altra roba in più. Hai capito? L'hanno fatta apposta. Per crepparti, dai. E vabbè. A tali che ha futidini, che se va vedendo in una testa. Ah, quello è poco ma sicuro. Se mi devo fare qualche dix, già me lo faccio lo stesso. Ma infatti. Tanto lì, uno vale l'altro, sempre io la penso così. Siamo sempre radioamatori tutti e due, nel senso che abbiamo le radio, amiamo modulare. Qui si farà qualcosa in più, sì, ma devi anche comprare antenne, apparati, ISO, disastro, no, no, io non ne voglio spendere altri su. Se ti avevo prontato il cavo e tutto quanto per farmi l'antenna io, da un palazzo all'altro la mettevo, cazzo, che era una bella quell'antenna. C'è tutto qua, fermo. Non so se te lo fanno fare a metterlo un palazzo all'altro. Eia, già me lo fanno fare, tanto la piazza lo stesso, per ascoltare. KK. E te c'è anche il ricevitore, è vero? E allora? Quanti ne ha ricevitori? Due? Ehi. KK. Oia. Io invece non ne ho più. Non ne ho più. Perché ci vuole anche l'antenna per il ricevitore, se no è un macello. Sì, da qua già ascolti bene. Se vai sui 40 metri senti perfettamente la sta lì, con l'antenna che c'ho. Sì, lo so. Ma non ascolti mai come avere l'antenna sua. Che freddo. Attacca il riscaldamento. È attaccato. Solo che in cucina c'era la finestra aperta. Se tu te ne roba con la bici non ti puoi lamentare. Sì, la stagione, manca l'aria bucciambata, non si può stare, se guzzineggi non è che puoi stare gruba con le serrate. E allora biglia di rubreddu. Infatti. Bisogna fare un po' e un po'. Noi la mattina l'apriamo, poi chiudiamo. E la sera c'è il calduccio qua perché ci sono i termosifoni attaccati. Ma noi termosifoni non ne abbiamo. E se sai quanto costa il cherosene ti metti le mani in testa. Lo so, anche quell'altro liquido che conveniva l'hanno aumentato di brutto. E infatti Liliana si aveva preso quella stufa, come si chiama? Kempro, come ti si chiama questo liquido? Libro, il doppio del cherosene costa quello lì. Io infatti le sto facendo andare a cherosene tutte e due, anche se sono Zibro, tutte e due, però le sto facendo andare a cherosene, costa la metà. Ma sai quanto costa il kerosene? Da 30 euro che costava il bidone, 40 zinco. Io mi ricordo che mamma mi mandava a comprarlo da Carlini, che via, ogni avviato in macchina. Da Fessoni lo prendo io. E ti posso garantire che non si può più comparare. L'unica cosa è che devo imbigliare con Putin, con quel bastardo. Ma adesso dice che sta liberalizzando anche il gas da mandare qua in Italia. L'aveva bloccata e ce l'ha liberalizzata. E cosa barra in capo? Già, si ricuda a capo. Tra un po' guberare come ti morire di fame. Sono già morendo di fame i poveracci russi. Il popolo, intendo me. Perché quelli che hanno i soldi sono in pochi. È un regime, in Russia è un regime comunista, ma... diciamo che di estrema comunista, comunisti estremi sono proprio. Lo so, purtroppo è così. Purtroppo in Ucraina comunque la guerra c'era da un bel tempo, perché quando io stavo con quella Ucraina, telefonavo il figlio, diceva ma qua c'è la guerra, e diceva vienitene qua, io me lo ricordo ancora, io ti sto parlando di un 5 anni fa. Lo so che c'era già la guerra. Anche gli ucraini, ci sono gente che è filorussa e c'erano gli ucraini proprio che non li volevano fare, non li volevano dare l'indipendenza praticamente, loro volevano stare con la Russia, i filorussi, e gli ucraini no, perché sono un popolo sovrano. Ma è tutto un casino, si stanno distruggendo a vicenda, si stanno distruggendo tutti quanti a vicenda, sono per terminare le armi da una base e dall'altra, tutti e due, la base non ne aggiudi da Gachidun. Putin è messo male, come finisce le armi e poi chiamati. Vedrai tu, perché all'Ucraina la aiutano tutti. Sì, ma se lui si vede musulmani usa bomba atomica, è peggio per lui anche. E che non ne usa di bomba atomica, perché come si muove un missile atomico nei libri in canieri americani e tutti quanti in NATO, pure bombe atomiche. L'avemmo pure noi, pure da qua partono. Ma lo sai. Sì, già lo so, ma se parte la bomba atomica crema Buruedo, infatti. E non so se l'è convento. No, perché le radiazioni vanno col vento, e sono cavoli acidi, se fanno scoppiare una di quelle sono cavoli acidi veramente. Non è da prendere sotto gamba, no? Cappa, avanti, che ha detto non abbiamo bombe atomiche. Io lo dico perché l'Italia ha perso la guerra, non può avere bombe atomiche. Ma non sono le nostre, sono quelle degli americani. Ce le abbiamo però sul nostro suolo. Ciao Natalì, no, neanche il nostro suolo, non ce l'abbiamo. Non le possiamo tenere, nulla, zero. È il fatto di cosa è questo qua. Purtroppo noi non abbiamo la bomba atomica, neanche degli americani. A meno che non è proprio qua da Santo Stefano, a chi non che non venne. A Santo Stefano c'erano i missili nucleari nei sommergibili, solo che quelli sono tutti in Spagna. Dall'Europa partono comunque le bombe atomiche, non ti preoccupare. Si sa bisogna poco poco chi fa dei bachi un missile, so cavoli acidi. Ma il fatto è questo, io so che anche Putin ha un tumore e quando lui si vede perso per perso è un casino. Secondo come ha attaccato, sì, c'è Muzzavone, si è stato molto ma molto, non gliene ha fatto nulla. La colpa è tutte quante delle nazioni che le danno le armi all'Ucraina, no, basta, perché non è che loro vogliono la pace. Se io voglio che uno c'ha la pace, io le regalo urbane, non le regalo le ombre o le mitragliatrici e cannoni, ma stiamo scherzando. Ma qui vale che Putin la sottometta all'Ucraina, non hai capito? La pace non si arriverà mai per quello, perché gli ucraini sono un popolo fiero, quelli non si arrenderanno mai. Ma visto che fino a fatto la fatica, migliaia di persone morte, le città distrutte, non so a che punto può arrivare, ce l'ho subito preso. E cosa ne sta ottenendo? Perché passo qua, e non ho subito preso, dico Zelensky. che era un comico, adesso è Pedro Presidente, secondo voi è Pedro, con tutti gli immunti già sulla coscienza, non so a chi piace, io sarei contro la guerra, quindi automaticamente ho detto no, niente armi, tipo già Romagna, chi su che vuoi, però no armi, avanti già. Lo so, però da una parte se tu non gli fornivi le armi, li avresti fatti morire tutti, perché l'avrebbero bombardati loro e non si potevano difendere, capito? Quello è il problema. Comunque, infatti, sarebbe dovuto esserci qualche missione di pace nel coso, però lì non è possibile, secondo me, è cosa che dura da anni, capito? Da un po' di anni. E anche la Cina, che è il senso comunista, potete mattessi, niente di lasciare che è matta, nulla, non ne vuoi sapere, non è tutti nulla. Tutti che io ridotto, nulla va, vuoi tutto questo, lo dica. Io, Italia, non mi sarei messo in mezzo, arrangetevi, è come la guerra santa, chi dice gli arabi, chi deve dare, ma l'avete ammazzato, me la fotte nulla. Perché se succede così un bombatone che ci facciamo anche noi, siamo in Europa, noi siamo vicini, ma siamo soltanto. Siamo vicini, sì, è un problema. Chi sta frenando è proprio perché Putin ha le bombe atomiche. L'unica cosa sarebbe che i suoi stesso lo ammazzassero e farà quella fine, perché i russi stesso lo ammazzano a quello lì. Noi le punende a punto brutto sono i russi. Non lo vedi, non possono fare una manifestazione, nulla, che subito entra la polizia, ricudi la Russia, ti rimanda in Siberia. In Kivi non viene democrazia come te inaugurano, in Kivi non ne vuoi fare proprio. Lo vuoi ammazzare. Tanto è vero che lui c'ha una persona vicino a lui, quando li può mangiare, fa assaggiare prima quello vicino a lui. Se gli demuri lui non mangia, è proprio l'offio. Anche quando va in bagno, quello lì, c'ha il personale, hai capito? Non va mai da solo, manco in bagno. Perché lo sa che è troppo cattivo, la gente lo sta odiando, lo sa, avanti già. Ma è possibile che non lo scoprino, cazzo, dove sta? Però lui doveva fare la fine di Bin Laden. Ma perché non lo sanno? Lo sanno sì. Il giorno che se ne alzano male i suoi colleghi dei servizi segreti, vedrai come l'ammazzano. Ma infatti ne sta combinando troppo. Ci sono i russi, tanti russi non sono d'accordo con lui, hanno fatto manifestazioni, quando fanno le manifestazioni fa restare. Perché la guerra non piace a nessuno, neanche i russi, a nessuno piace. No, non piace a nessuno, no. Infatti molti hanno manifestato anche contro la guerra e cose. C'è gente che è stata facendo sacrifici anni e anni, ma facendo la casa sono state distrutte le case con le bombe. Ma le vite di città sembrano la metà della pietra, non c'è più niente, non ha la luce, non ha l'acqua, non c'è da mangiare, poveracci, mi sono muscimare a vero, ecco perché non piace la guerra, ma stiamo scherzando, c'è l'Eucaristia che è una pazzesca. Ma fuori a prendercela con i bambini, con le scuole, cosa c'entra? Mica sono obiettivi militari. Tu se butta i missili così, cosa cade, cade. La testa, cosa ragiona? Infatti è uno che non ragiona. Infatti, E poi l'ha buttato anche all'ospedale. E lui subito se ne toglie in fretta e dice, no, io sapevo che quello lì era un centro militare, hai capito? Mi era fatta saetto, la battaglia in varia. Oh, io c'è tanto di mio, povera gente che sta morendo qua. E anche i civili sta sparando. Cos'è civili? I civili! Ho capito, i civili. Ah, c'è civili. Che su modula di pum! Se lo fanno portate, pum pum! Tonino, Tonino. Avanti, Tattalino. Tattalino, poi Tonino, dimmi con che apparato stai uscendo. Io sto uscendo con il Galaxy. Già va bene anche il Galaxy. Ho attaccato il 3G, è stato attaccato. Già vanno bene. Io quel presidente non l'avrei venduto, te lo ripeto di nuovo. Non mi dai, il solito segnale più perfetto è questo Galaxy. L'altro mi ha il segnale più di 9,2 non mi dà, 9,5 massimo. Ma nessuno fa lo scala, capito? Ecco perché non mi piace. Esatto, anche io l'unico che ho è il Galaxy che dà segnali giusti. E quando ci avevo il 140, controllavo il 140, era preciso identico il segnale. Poi io con le refighi ti porto a zero, con le refighi, cioè no, a zero. Io me lo porto a zero e la mano con le refighi. e quindi a te ti arriva Santiago 9, sei il massimo proprio. Natalino invece mi sta arrivando Santiago 4 con le freghe chiuso. E Natalino è più chiuso e rimane in mezzo ai palazzi. Però aperto Natalino mi arriva quasi 9.30, Ciao, Natalino. Ehi, già sono qui. Adesso mi preparo qualcosa da mettere sotto i denti. E così presto. E purtroppo la salute se n'è andata. Ehi, salute se n'è andata. Vuoi mica quello che c'è, tu ce l'ho anch'io, il diabete, va. E poi io sono magno. Ehi, e cosa mangi? Non si può mangiare più di su che mangiavamo i prima, dimmi così. Natali, allora, il profiterolo me lo mangio, ce l'ho sempre nel frigo. Qualche gelato me lo mangio, l'uomo che al giorno già me lo mangio. Quindi la glicemia è sempre sotto controllo, quindi non fugge al lupo. E quando mi faccio misura la glicemia, 102, 104, andrà bene. E anche la mia già è sotto controllo, non è che... Però è meglio non abusare, anche se no la buia aumenta, devo macello. Metti a fare insulina, ma servo. Io sono due tipi di insulina, capito? Una per il giorno, se in tal caso mi sale, se no dopo, solo tanto quella notte va a fare, basta. Solo una notte. Però ogni giorno, se io ne approfitto a mangiare qualcosa di dolci, e mi sale, oltre 200 mi faccio pure un braccio. Ieri qualcuno mi ha fatto vedere, voglio mangiare farina, ha mangiato farina e me l'ha fatta assare in picco. Ce l'avevo a 104 e la notte mi è salita a 260. Forse o è la birra o è... Ho bevuto la birra insieme alla farina. Sarà la birra, perché la farina per la pazienza. Ah, io faccio solo quella della notte e basta. Prendo una pastiglia al giorno per il diabete e più faccio quella lenta per la notte e basta. Non è che ce l'ho grave da farmi, prima quattro me ne facevo di insuline. C'hai il merito due, Natalia. Eia. Però dopo ha visto che era sotto controllo e me l'ha tolta. Mi ha dato prima una pastiglia che mi ha fatto male, allora ho ripreso a fare l'insulina. Alla sua visita mi ha dato un'altra di pastiglia che andava bene e ne ho preso, e ho preso, prendo questa pastiglia qui e la notte, solo la notte la faccio l'insulina, perché sto prendendo troppe pastiglie per l'altra roba che ho. E quindi non si è fidata a togliermi anche quella, capito? Se no me la voleva togliere, quella della notte. E anche io ho merito due, anche Gianni. Quella è diabete che viene dopo gli 60 anni, capito? Ovviamente da giovane più ne ho approfittato, me ne ho preso roba buona, dolce. E quindi sì, e la pastiglia anche io la prendo. Metformina giù di 1,5 m, lo so se tu prendi quella. No, la metformina che mi ha fatto male. Prima mi ha dato quella lì e mi ha fatto male. Capito? Chissà non la succucciavo la bacchiglia. Io già ero predisposto, però stavo attento. Quando ho avuto la pancreatite che mi è venuta, me l'hanno trovata all'ospedale, infatti, lì, la glicemia alta. Sono andato a fare la visita e c'avevo il diabete. Io me l'ho ricordato per il cuore lo stesso, mi ha chiamato il dottor Fancillo, il diabete è giovato il diabete, ma mi fa un esempio, purtroppo in casa mi ha il diabete, e mi ha detto non ti preoccupare, comunque se mantieni una certa dieta io non ti do neanche la fatica, ha giovato a me mi piace mangiare e allora ti do la fatica e fai come ti pare piace.